guardare ancora avanti, labbra desiderose, prendimi fino a stancarmi di più. Voglio nuotare con te che strappi l'anima, trascina via tutto il caldo Shabbat.